2024 2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati a 2024, benvenuti, le 15:34 minuti, inizia una nuova puntata, questo è il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia, come la tecnologia ci cambia la vita, ed è il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it, ma ci sono altre modalità per raggiungerci. Prima di tutto il nostro numero verde che potete chiamare già da questo momento per parlare soprattutto di Wi-Fi. Oggi parleremo di Wi-Fi pubblico, quindi in piazza, in strada, in città prevalentemente, ma non solo, e anche di Wi-Fi in casa, in ufficio, alcune indicazioni e alcuni consigli su come fare una buona rete Wi-Fi in casa. Questo nella seconda parte, dopo il giornale radio delle 16. Adesso parliamo invece di due temi. Uno è relativo all'AGCOM, l'altro è relativo ad un evento molto importante che è accaduto questa settimana, ovvero l'arrivo alla Stazione Spaziale Internazionale di una sonda privata. Prima però un accenno a Facebook, visto che stiamo commentando la quotazione di Facebook che è avvenuta in questa ultima settimana, non ieri ma una settimana fa. Quella che molti avevano dipinto come la madre di tutte le quotazioni si è trasformata in un flop per Facebook. Di certo è stato un successo per chi ci ha messo, chi ha messo azioni sul mercato, visti i 18 miliardi incassati, poco più di un miliardo per il fondatore Zuckerberg, ma la lista di cose che sono andate storte è un po' lunga. Pensate che dopo una settimana, in appena 5 sedute, l'azione vale poco meno di $32 dai 38 della quotazione, il che, numeri alla mano, calcoli alla mano, ha trasformato il tutto nella più grande flop degli ultimi 10 anni. È sicuramente, in termini economici, la più importante operazione dell'era internet, ma visto l'andamento di questa prima settimana è un flop certificato dai numeri. Poi ci sono altri problemi perché secondo alcune stime preliminari sarebbero pensate oltre 150 i milioni di perdite complessive dovute ai computer del Nasdaq che sono andati in tilt nei primi minuti di contrattazione. Allora, le banche e le società di intermediazione se la prendono col Nasdaq, gli investitori se la prendono con le banche, ma non tutto termina all'interno di questi protagonisti, perché la SEC, che è la Consob americana, sta già indagando e alcuni cittadini si sono già rivolti al tribunale, e siamo solo alla prima settimana. Parliamo di altro, parliamo di spazio. La scorsa settimana con Luigi Bignami abbiamo parlato della missione di SpaceX, una delle società private che negli Stati Uniti stanno investendo un sacco di soldi per portare merci e fra qualche anno uomini nello spazio. I motivi sono vari e ne abbiamo parlato la scorsa settimana con Luigi Bignami, quindi vi consiglio e vi invito a scaricare il file MP3 della nostra trasmissione all'interno del servizio podcast di Radio 24 per riascoltare quella puntata. Ma venendo alle cose di questa settimana, martedì il razzo Falcon 9 di SpaceX è stato lanciato da Cape Canaveral, ieri la sonda Dragon si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale. Poco dopo ci siamo messi in contatto con Marco Villa, che è direttore di missione di SpaceX, che non ci ha risposto al primo squillo per un motivo che lui stesso ci ha spiegato. Allora, in questo momento sono qui al Mission Control Center in Hawthorne, in California, alla sede di SpaceX, dove gestiamo tutte le operazioni di Dragon. E quando mi ha chiamato non potevo rispondere perché ero in comunicazione con gli astronauti sulla stazione spaziale. Ci stavamo scambiando i complimenti e i ringraziamenti perché 30 secondi fa, un minuto fa, siamo ufficialmente diventati, Dragon è ufficialmente diventato il primo veicolo commerciale a visitare la Stazione Spaziale Internazionale e a ufficialmente iniziare una nuova era del volo spaziale americano. Quindi ne stavamo parlando sul loro canale di comunicazione. Quindi un appuntamento molto importante. A questo punto possiamo, Marco, iniziare ufficialmente l'intervista, potremmo dire. Allora, noi siamo al telefono con Marco Villa, che lavora a SpaceX, come avete sentito, al centro di controllo che controlla e tiene traccia di tutto quello che accade dopo il viaggio con Falcon 9 di Dragon che si è attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale. Marco, allora benvenuto intanto a Radio 24, su Radio 24. Grazie, piacere tutto mio. Ti faccio subito una domanda per far capire agli ascoltatori di che cosa ti occupi precisamente tu all'interno del team di SpaceX. Io ho, diciamo, un lavoro giornaliero e ho il lavoro che faccio durante le missioni. Il lavoro che faccio ogni giorno, ormai da 5 anni qua a SpaceX, è quello di direttore delle operazioni di missione. Quindi, in parole povere, nel 2007, quando sono arrivato, non c'era l'operazione di missione a SpaceX e io e il mio collega l'abbiamo praticamente sviluppata, e questo oggi è la culminazione di tutto il lavoro che abbiamo fatto. Quindi passo le mie giornate a pianificare queste missioni, queste e alle successive che Dragon farà. Quando c'è una missione, invece, il mio lavoro è quello di direttore di missione, quindi quello che mi hai trovato adesso in console sono la persona che è l'equivalente della flight per lo shuttle o per altri simili velivoli. Cioè, potremmo dire che quasi quasi sei come il controllore di volo che è sulla torre di controllo per gli aeroplani? Sono il direttore d'orchestra, sono la persona che coordina, gestisce tutto gli altri operatori e tutte le operazioni, comandi, eccetera. Sì, è una buona similitudine. Senti, questa missione è una missione storica, soprattutto per gli addetti ai lavori che sono molto entusiasti, però se volessimo dire al pubblico perché è importante questa missione, perché inizia una nuova era e quali sono anche le prospettive future? Ma diverse persone hanno diversi punti di vista, ovviamente, però nessuno può, tutti sono d'accordo sul fatto che l'essere riusciti oggi a dimostrare che una ditta privata, pur col supporto di un'agenzia spaziale come la NASA, ma che mettendoci tantissimo del suo e mettendoci tantissime novità e un modo nuovo di lavorare, quindi dimostrare che in questa realtà riesce a raggiungere obiettivi e goal che solamente 4 o 5 nazioni al mondo sono riuscite, e nello stesso momento essere la ditta che sta dando una nuova visione a tutto il mondo aerospaziale, non solamente americano ma a livello mondiale, è decisamente una pagina storica. Ed è decisamente da oggi in poi, o dalla fine di questa missione in poi, noi qua tutti siamo convinti che la pagina aerospaziale mondiale sarà diversa, e quindi essere parte dal punto di vista personale, ma di tutti noi, di questa realtà è una cosa estremamente importante e incredibile. Noi stiamo parlando a pochi minuti dall'attracco definitivo di Dragon, no, di Dragon alla Stazione Spaziale Internazionale, che è, diciamo, proprio il momento in cui, come tu dicevi, c'è la dimostrazione finale che questa cosa è possibile, e quindi non solo il lancio è stato possibile, il viaggio nello spazio, ma anche proprio il cosiddetto docking, l'attracco alla Stazione Spaziale Internazionale. È tutto andato bene? Cioè, dopo tanti rinvii, perché effettivamente ci sono stati più che problemi, volevate essere veramente sicuri che tutto funzionasse per il verso giusto. In questa missione, dalla partenza fino all'attracco, tutto è andato per il verso giusto? Sì, è vero, abbiamo rinviato una volta. Prima di arrivare al pad, quindi alla zona di lancio, abbiamo ritardato un paio di volte, quindi abbiamo spostato. E tutte le volte era perché c'è un principio molto basilare a SpaceX. Noi l'abbiamo sempre applicato sia ai tempi di Falcon 1, e noi non lanciamo se non siamo assolutamente convinti che abbiamo fatto tutto il possibile perché la missione sia un successo. E entriamo in una fase prima di un volo in cui ogni singolo impiegato è autorizzato, è sempre autorizzato, ma è diciamo incitato a riguardare tutto in maniera indipendente e a portare e essere sicuro che tutto va bene. Quindi fino a quando tutto questo processo non è finito, noi non lanciamo. E per questo che ci sono stati, diciamo, abbiamo spostato la data un paio di volte. E poi, quando siamo arrivati al tentativo del 19 maggio, abbiamo avuto, come saprai, questo a bordo durante il lancio, che è una cosa che siamo riusciti a risolvere in maniera molto veloce. E niente, poi abbiamo lanciato, e la dimostrazione, diciamo, che del nostro principio basilare che applichiamo è il fatto che siamo arrivati alla Stazione Spaziale Internazionale al primo tentativo, quindi è a testamento che è decisamente un approccio molto valido. A questo punto che cosa succede? Quali sono le prossime tappe della missione? Allora, a questo punto siamo attaccati alla Stazione Spaziale per certo periodo di tempo, fino al 31 maggio. A quel punto simili azioni, ma all'ordine inverso, verranno effettuate ancora dagli astronauti, dove ci muoveranno dal nodo 2 dove siamo attaccati e ci lasceranno andare, diciamo, e dove poi faremo la partenza, e lo stesso giorno rientreremo fuori dalla costa della California, quindi nell'Oceano Pacifico. Durante questi giorni in cui siamo attaccati, verranno principalmente utilizzati per fare il trasferimento del cargo. Il cargo che abbiamo portato su verrà tirato via e ci daranno del nuovo cargo da portare indietro. Ed è una cosa da sottolineare: Dragon è l'unico spacecraft, è l'unico veicolo che può portare una seria quantità di cargo sulla Terra. L'unico altro che può farlo è la Soyuz, ma può portare un carico molto limitato. Sì, perché gli altri, questo è importante, è fatto bene a sottolinearlo, perché gli altri cargo, cioè quello europeo, quello russo, cioè l'altro russo rispetto alla Soyuz, il Progress e anche il giapponese, sono tutti a perdere. Questo fattore è importante perché il vostro cargo è pensato in prospettiva, fra qualche anno, poi tu ci dirai quanti anni, per portare uomini e per far rientrare uomini dell'atmosfera. Ecco, questa prospettiva avverrà entro quanto tempo? Quello che hai detto è sicuramente vero. Ormai lo sanno tutti che siamo uno dei partecipanti a questa nuova iniziativa per la crew, Commercial Crew. L'anno in cui succederà dipende un attimino da quanto riusciremo a fare, a essere parte di questa iniziativa del governo americano. Diciamo giustate date che vanno da intorno al 2015. Sappiamo però che possiamo fare test anche prima del 2015, quindi è difficile dare una data precisa perché c'è ancora del lavoro da fare, e come abbiamo imparato in questa realtà della versione cargo, il lavoro non dipende solamente da noi, è anche un lavoro che va fatto in armonia, in sintonia con i partner, in questo caso la NASA. Quindi diciamo che noi abbiamo un target, sappiamo a livello tecnico quanto quello che dobbiamo fare, come arrivarci, poi la data esatta varierà un attimino, ma il 2015 è un buon target, diciamo. Marco, noi ti ringraziamo per la disponibilità, ti lasciamo al tuo lavoro, in bocca al lupo e a presto. Grazie tantissimo, è stato un vero piacere, Forza Italia, è un onore per me da italiano essere qui a rappresentare la nostra nazione, e niente. Grazie tantissimo dell'opportunità. E infatti anche noi facciamo il tifo per te, insomma siamo orgogliosi che tu partecipi a questa pagina storica per lo spazio. Insomma, Marco, quando ti sarai tranquillizzato, cioè la missione sarà ritornata sulla Terra, e quindi insomma tu avrai magari un po' più di tempo, magari ci risentiamo con maggiore tranquillità. A presto ancora. Con molto piacere. Intervista registrata ieri, oggi Marco Villa ci aveva anticipato che si sarebbe riposato dopo lunghe notti passate alle console di controllo della missione SpaceX della capsula Dragon, che appunto il 31 di maggio si staccherà per poi riatterrare sulla Terra. Le 15:47 minuti, ci fermiamo per un minuto, a tra poco. 2024. Sapete che da qualche settimana stiamo tenendo vivo l'interesse per l'elezione dei vertici dell'autorità per le comunicazioni, che sono scaduti il 16 maggio. Il presidente deve essere scelto dal governo, mentre quattro commissari devono essere eletti dal Parlamento. Al momento la seduta della Camera per questa elezione è stata spostata al 6 giugno per dare tempo di raccogliere i curricula dei candidati. Questa settimana sentiamo proprio su questo tema il parere di Guido Rossi, che è stato presidente di Telecom e anche della Consob, quindi diciamo è titolato per parlare di un'autorità che ha competenze sul mondo delle comunicazioni. Rossi ha anche scritto per il Sole 24 Ore un'analisi sulle autorità nelle moderne democrazie e gli ho chiesto se secondo lui il Parlamento ha compreso l'importanza di questo voto. Guardi, secondo me, se devo essere sincero, no, perché certamente la futura democrazia ha sicuramente una base solida nella rete e in tutto quello che riguarda la comunicazione. Quindi l'importanza che questo può avere per la politica e per la democrazia futura è enorme. Quindi questa diventa una delle autorità indipendenti tra le più importanti. E lei dice però ancora non si è compresa questa importanza all'interno del Parlamento. No, non si è compresa l'importanza all'interno del Parlamento, anche perché è sbagliato che poi ci sia una divisione secondo il manuale Cencelli o altri sistemi di quel genere, perché allora bisognerebbe adottare un sistema come quello degli Stati Uniti, che è il potere esecutivo che nomina per esempio i giudici della Corte Suprema, e poi però questi vengono sottoposti a un esame durissimo da parte del Parlamento. Devono avere un curriculum preciso, essere persone notorie in tutti i settori di cui si discute, e a quel punto vengono sottoposti a un esame che è rigorosissimo. Senta, questo rinvio che c'è stato di 2 settimane, che è dovuto essenzialmente anche dall'esigenza di raccogliere i curricula. Il presidente Fini ha detto: raccogliamo i curricula dei candidati che devono essere eletti alla carica di commissario, dopodiché il Parlamento può valutare la bontà di questi candidati. Lei ritiene che sia genuina questa operazione o sia un tentativo di fare melina e quindi per spostare solo in avanti il voto e nulla di più? Guardi, questo per me è molto difficile, perché mi è quasi impossibile ultimamente mettermi nella testa dei principali soggetti politici di questo paese, quindi non lo so. In sé e per sé però quello di raccogliere i curricula delle persone che vengono indicate, secondo me, è certamente un passo in avanti, invece che una pura designazione senza sapere neanche qual è il curriculum di chi viene eletto. Se lei dovesse fare uno o più nomi per la carica di commissario di questa prossima authority, ha già si è fatto una sua opinione? Ma guardi, io mi sono fatto una mia opinione, nel senso che ho a conoscenza abbastanza, essendo poi in qualche modo vissuto anche come 2 volte presidente di Telecom nell'ambito del sistema delle telecomunicazioni, e certamente ci sono dei personaggi validissimi che dal punto di vista del curriculum sono di primo piano, anche se non so poi quanto siano collegati al sistema dei partiti. Mi riferisco in modo particolare a Stefano Quintarelli, che è sicuramente il numero uno degli esperti in questo settore, soprattutto della rete e così via. Quindi questa sarebbe una scelta straordinaria, per esempio. Lei dice: non so quanto siano collegati al sistema dei partiti, anche se sarebbe meglio per molti osservatori che non fossero collegati al sistema dei partiti. No, non c'è dubbio. Beh, scusi, posso raccontarle un fatto personale? Certo. Quando io venni nominato presidente della Consob nel 1980, il ministro del Tesoro Andreatta, è vero che erano altri tempi, mi telefonò senza conoscermi personalmente, tra l'altro, perché io personalmente non lo conoscevo, aveva letto soltanto i miei scritti, e mi propose di diventare presidente della Consob, e ben sapeva che io non ero né democristiano, ma semmai se avevo qualche simpatia politica ero da tutt'altra parte. E io gli chiesi: ma come mai? E dice: io la scelgo perché lei è una persona competente. Beh, dico, succedessero ancora cose di questo genere. Riprendiamo tra poco a parlare di questo, parliamo anche tra poco di Wi-Fi dopo il GR. 2024. La seconda parte di 2024, io sono Enrico Pagliarini, potete seguirmi anche su Twitter cercando appunto Enrico Pagliarini. Simone Zanardi, buongiorno, ciao Simone. Ciao Enrico. Ci sei su Twitter? No, bravissimo, bravissimo. Dunque possiamo allargare oltre che a Twitter anche a Facebook la nostra pagina, quella di 2024, potete seguirci anche lì, fare i vostri commenti, ma se volete parlare con noi di Wi-Fi, in questa seconda parte parliamo di Wi-Fi, il nostro numero verde attende le vostre chiamate 800240024. Valeria Bernardi si occupa della parte tecnica, ciao Valeria, oggi sei molto contenta di essere con noi. E poi tra poco ci saranno anche altri ospiti, no? Anche i nostri ascoltatori. Volevo concludere con ancora due note sul voto che ci dovrà essere fra un paio di settimane, il 6 giugno, per i vertici dell'autorità per le comunicazioni. Allora, i vertici sono scaduti attualmente il 16 maggio. Noi ne parliamo perché tutto ciò è molto importante per il futuro delle comunicazioni, anche dell'uso che noi facciamo di internet, ad esempio anche della nostra bolletta telefonica. Cito una campagna che è stata lanciata da Altro Consumo questa settimana proprio sul costo delle tariffe telefoniche. Beh, tutto ciò dipende dalla autorità per le comunicazioni, quindi la nostra vita e questa autorità sono fortemente collegate. Ne abbiamo parlato anche nelle ultime settimane e dicevo, il voto è stato spostato al 6 giugno per dare tempo di raccogliere i curricula dei candidati. Allora, c'è un movimento che è nato su internet, ma oramai non si muove solamente su internet, che chiede trasparenza per il voto, perché fino a poco tempo fa, speriamo che questo sia relegato al passato, ma non è detto, perché PD e PDL non mi sembrano molto inclini a questo movimento trasparente. Comunque, diciamo, fino a poco tempo fa non si sapeva nulla fino a pochi minuti prima del voto, e poi all'interno del Parlamento saltavano fuori i commissari che venivano votati. Allora c'è questo movimento che chiede trasparenza. Ci sono stati anche alcuni deputati, alcuni parlamentari che hanno scritto al presidente della Camera Fini, che ha accettato questo invito e ha detto va bene, allora spostiamo il voto per raccogliere le candidature perché siano trasparenti e soprattutto basate sulla competenza, perché in questa authority mai come oggi, vista l'importanza di internet nel sistema delle comunicazioni e nella moderna democrazia, questo è talmente importante per cui abbiamo bisogno di persone competenti. Abbiamo fatto anche e citato dei nomi a 2024. C'è anche un piccolo movimento che chiede di rispettare, anche se non c'è proprio un obbligo, ma comunque di dare un'occhiata anche alle cosiddette quote rosa, anche se è sempre meglio valutare la competenza delle persone piuttosto che il sesso, perché poi il rischio che rispettando queste quote rosa magari ci si infila qualche persona che non è prettamente competente in quel caso, ma che rispetta solo una stupidissima quota che alcuni sbandierano. Ma comunque anche questo è importante e anche questo va sottolineato. Le 16:09 minuti, dunque Simone, oggi di che cosa vogliamo parlare? Partiamo dal Wi-Fi che noi abbiamo in casa, magari ricordando alcune cose che non tutti i nostri ascoltatori hanno presenti, per poi uscire, andare in strada, in piazza. Tra poco vi presenteremo un ospite che ci parlerà di un progetto che è stato fatto in provincia di Roma, ma è un esempio, un buon esempio di quello che si può fare. Simone, il Wi-Fi a cosa serve? Beh, serve per collegare i dispositivi che abbiamo in casa, e questi dispositivi sono sempre più diversi e più vari, utilizzando una tecnologia senza fili, quindi utilizzando le onde radio e appunto utilizzando il wireless. Cosa colleghiamo con questo standard, con questa tecnologia Wi-Fi? Essenzialmente colleghiamo i computer, ma anche gli smartphone, i tablet e tutti quegli accessori, tutti gli strumenti di elettronica di consumo che stanno comunque diventando connessi a internet, quindi televisori, gli dispositivi di sorveglianza, tutto quello che si può collegare a internet. Anche le stampanti, le macchine fotografiche, eccetera, eccetera. Dunque io sono un grande sostenitore, nonostante lavori alla radio, e quindi grazie al wireless noi possiamo lavorare, però io sono un amante del cavo, perché dico, laddove è possibile collegate il cavo e non utilizzate le frequenze radio. c'è una ragione che tu, che sei un ingegnere specializzato in telecomunicazioni, puoi spiegare meglio di me. Assolutamente. Beh, il cavo in assoluto è lo strumento tuttora più performante dal punto di vista della velocità. Facciamo una premessa, stiamo parlando in questo momento di rete locale, cioè le reti che noi abbiamo in casa per comunicare con internet si compongono di un ingresso che arriva da internet, appunto ci dà la connessione a internet, dopodiché abbiamo una rete locale che distribuisce questo accesso a internet tra tutti i dispositivi. Ora, questa rete locale può utilizzare diverse tecnologie. Il cavo in assoluto è la tecnologia che dà la velocità alle prestazioni maggiori, stiamo parlando di 1 gigabit al secondo. Adesso, senza entrare poi nel dettaglio di cosa si può fare con questo gigabit. Il wireless, anche nelle ultimissime versioni, non raggiunge queste velocità, si ferma all'incirca un quarto della velocità. In modo spannometrico. Poi diciamo. Ci sono anche dei problemi di interferenza. Assolutamente, il cavo non è soggetto a interferenze, tranne fenomeni assolutamente controllati, diciamo, mentre il wireless è molto soggetto alle interferenze, soprattutto se non stiamo attenti, da parte di altre reti Wi-Fi, oppure di dispositivi che usano le stesse frequenze radio, come possono essere i baby monitor, i dispositivi di sorveglianza video, il Bluetooth, che pur non essendo la stessa tecnologia usa le stesse frequenze. Tutte queste tecnologie hanno il potenziale problema di interferire tra di loro, ecco. Quindi bisogna stare attenti a queste cose. Però c'è un però, il problema è che non tutti gli strumenti che noi abbiamo, che tu hai citato, hanno un ingresso per il cavo di rete. Certo. Quindi diciamo che oramai avere una rete wifi è quasi indispensabile. Magari potrebbe essere utile ogni tanto spegnerla, anche se mi pare che non tutti gli access point, i router permettano di fare questo, non hanno un tastino per spegnerla. Non tutti, è una caratteristica che non tutti danno e che molti apprezzano, io per primo, perché la possibilità di poter spegnere il wifi e di continuare a mantenere il segnale su cavo è anche un sistema per aumentare la sicurezza. Comunque, giustamente, come tu dicevi, se fino a poco tempo fa la discriminante tra cavo e wireless era da un lato le prestazioni del cavo e dall'altro la semplicità di installazione del wireless, perché il cavo richiede comunque di stendere i fili nelle canaline, oggi a favore del wireless si è aggiunto un altro elemento, cioè i dispositivi di nuova generazione, gli smartphone, i tablet, che di fatto devono per forza essere collegati via wireless, perché non possono fare altrimenti. Sì, questo è importante. Precediamo una domanda possibile dei nostri ascoltatori. Stiamo parlando di potenze di emissione molto basse. Assolutamente, giusto? Qualche milliwatt, e quindi potenze che assolutamente non sono in grado di creare problematiche, diciamo, di salute. C'è un dibattito abbastanza che si protrae da qualche anno, diciamo che per la loro stessa natura di dispositivi che tipicamente non stanno neanche vicino alle parti anatomiche del corpo umano. Sì. Comunque sia, senza entrare diciamo in questo dibattito, visto che molti di noi hanno un telefono cellulare a fianco, allora la potenza emessa da un telefono cellulare è di gran lunga superiore, certo, a quella emessa da un wifi. Assolutamente, e per di più su un dispositivo che sta più vicino al nostro corpo per sua stessa natura, ecco, rispetto a un access point. Esatto, esatto. Ci sentiamo tra poco. 2024. Troverete questa puntata, come del resto tutte le puntate di 2024, anche all'interno del servizio podcast di Radio 24. Tutte le informazioni, molto semplici, sono su www.radio24.it. Vi ricordo che la prossima settimana, il 2 giugno, saremo in diretta dal Festival dell'Economia di Trento, quindi ci sarà, oltre che la possibilità di seguire 2024, anche di fare magari domande dal vivo o scambiare quattro chiacchiere con me o con i nostri ospiti. Oggi è con noi Simone Zanardi dal laboratorio di PC Professionale. Simone, allora diamo alcuni consigli su come installare una rete Wi-Fi performante, una buona rete in casa. Allora, innanzitutto ti faccio una domanda sul router, cioè quell'aggeggio che ha nel 90%, forse ormai nel 100% dei casi, anche l'antennina che distribuisce il segnale Wi-Fi in casa. Vanno bene tutti o bisogna stare attenti a comprare un prodotto che costa magari anche un po' di più perché è più performante? Allora, diciamo che la prima distinzione da fare è tra il router con modem ADSL o quello senza il modem ADSL. Senza diventare troppo complicati, essenzialmente il router col modem ADSL, ammesso che noi abbiamo, come la maggior parte della gente in Italia, una connessione a internet tramite la tecnologia ADSL. Diciamo la maggior parte della gente che è collegata a internet. Esatto, ecco. Sì, assolutamente. Certamente. diciamo, il router col modem ADSL si collega direttamente al doppino telefonico e quindi a internet. Ci sono poi router che si chiamano router a banda larga che non hanno il modem integrato, che richiedono poi un dispositivo a parte, che è il modem, a cui si collegano, cioè diciamo il modem fa da tramite tra il router e il collegamento fisico a internet. Fatta questa premessa, il prezzo di un router wireless, la gamma è abbastanza ampia, si parte dai 30-40 euro per i modelli assolutamente più economici, con prestazioni assolutamente adeguate, ma diciamo un po' inferiori, si può arrivare fino ai 200. Sto parlando di dispositivi per la casa, quindi non professionali per l'ufficio. Che differenze ci sono in questa fascia abbastanza ampia di prezzo? La tecnologia radio, quindi le prestazioni, che comunque possono variare, perché nonostante oggi ci sia uno standard abbastanza consolidato, all'interno di questo standard ci sono vari step di velocità, quindi le prestazioni, cioè, a livello velocistico, anche un po' la portata, cioè quanto il segnale sia efficiente nel coprire un ambiente tipicamente con molti ostacoli, come la casa composta da vari ambienti, e poi alcune funzioni accessorie, che la possibilità di collegare dischi USB, queste cose un pochettino secondarie. Diciamo che comunque a 100 euro o anche sotto i 100 euro si può comprare un buon dispositivo in grado di servire senza eccessivi problemi un appartamento di medie dimensioni. Poi dire il mio appartamento sarà coperto senza problemi di copertura da un singolo router è una domanda da $1,000,000. Dovete chiamare Simone Zanardi a casa. Esatto. Senti, può fare qualcosa, e se sì che cosa, per evitare l'interferenza? Allora, ci sono palazzi, visto che il wifi è oramai diffuso, si sta diffondendo sempre più, sono palazzi dove magari uno intercetta 10 o più reti wifi contemporaneamente, magari alcune arrivano molto deboli, però ci sono. Questo crea interferenze. Certo. Si può fare qualche cosa? Sì, dunque l'interferenza tra reti wifi può essere attenuata utilizzando i canali che il wifi prevede nella sua tecnologia, cioè wifi può trasmettere su diversi canali non interferenti tra di loro. Quindi diciamo che a livello concettuale, se noi vediamo una rete del nostro vicino di casa che trasmette sul canale, ipotizzo 5 per dire un numero, noi possiamo spostare la nostra sul canale 10. Cioè riusciamo a vederlo facilmente? Riusciamo a vederlo facilmente, con degli strumenti, ci sono software anche gratuiti, e comunque la maggior parte dei router moderni ha l'opzione, sceglie automaticamente il canale su cui non rilevo interferenze di potenza elevata. Quindi bene o male il router si autoadegua al suo contesto, diciamo all'ambiente in cui viene installato. Questa è una soluzione per le altre reti wireless. Poi ci sono, come dicevo, altri elementi che possono fare interferenza, che non sono reti wifi ma sono altri strumenti che utilizzano le onde radio. Lì niente, bisogna stare un pochettino attenti a come collocare il dispositivo, non metterlo in prossimità di altre fonti di emissione, come facciamo l'esempio classico. Il forno a microonde, per esempio, trasmette a 2 GHz e 4, quindi una frequenza utilizzata anche dal Wi-Fi. Magari non mettere l'access point proprio vicino al forno a microonde o vicino ai dispositivi di sorveglianza wireless. Tutte queste tecnologie aiutano. Poi c'è un altro approccio, è quello di usare i dispositivi di ultima generazione, possono usare due frequenze portanti, senza entrare troppo nel dettaglio. La 2 giga e 4, che è molto affollata da tante tecnologie, e poi ci sono i 5 GHz, che è un'altra frequenza, che è molto più libera, quindi tipicamente ha un'efficienza maggiore perché non è affollata da altri dispositivi. Però poi bisogna avere anche i terminali che sono adeguati a questa frequenza. Assolutamente, giusto? Bisogna verificare che tutti i terminali che vogliamo collegare vadano a 5 GHz. Sì. Anche in questo caso, visto che uno dei miei pallini è la semplicità, perché se noi vogliamo, si dice, digitalizzare l'Italia, tutte queste cose dovrebbero essere più semplice, cioè mi sembra che siamo ancora in un ambito piuttosto complesso, perché se uno si azzarda ad entrare nella console dove può spostare qualche parametro del proprio router wifi, se non ha un minimo di competenza non ci capisce nulla. Assolutamente, diciamo che le cose sono migliorate negli ultimi anni. Sicuramente oggi, se noi acquistiamo, facciamo un esempio partendo dal terminale, se io prendo uno smartphone, un tablet, e mi reco in un posto dove c'è già una rete wireless ben configurata, tipicamente collegarmi a questa rete, fatto salvo che mi diano le credenziali di accesso, cioè la password, è relativamente semplice. Configurare il router in modo appropriato può essere leggermente più complicato. Anche in questo senso si sono fatti numerosi passi avanti, ci sono delle tecnologie che per esempio permettono di creare una rete sicura, quindi con un sistema di password che protegge la rete senza eccessivi patemi d'animo. Però comunque la configurazione avanzata di un router può richiedere delle competenze che non sono proprio quelle di base. Sì, sì. Diciamo che non è semplice come la TV, anche se è vero che le moderne TV sono diventate molto complicate. Senti, hai citato la sicurezza. Allora, diciamo subito che è meglio non lasciare il wifi aperto. Assolutamente. Allora, anche qui i produttori hanno fatto dei passi avanti. Oggi è difficile, come succedeva qualche anno fa, se si comprava un router wireless, se non lo si configurava diversamente, il wireless che si forniva era aperto, cioè non era protetto da una password. Oggi praticamente tutti i produttori, quando forniscono il dispositivo out of the box, cioè fuori dalla scatola, è già protetto con una password e usa delle tecnologie che sono molto più sicure rispetto a quelle che c'erano qualche anno fa. Una buona norma comunque è verificare questi settaggi, ogni tanto cambiare comunque la password di accesso in modo tale che sia variata, e comunque verificare appunto che tutti questi strumenti siano attivi, a costo di dover accedere a quella console famosa di cui dicevamo è un pochettino complicata, però piuttosto che mettere la testa come lo struzzo sotto la terra, sì, meglio verificare questi. Diamo anche un consiglio, quando il provider, cioè il gestore di telefonia, vi offre e magari vi fornisce il router wifi per il vostro collegamento a DSL, tendenzialmente è meglio cambiare quella password che vi viene fornita di default, si dice così, perché ci sono strumenti, software, mi hanno detto, che permettono di sniffare quelle password facilmente perché sono fatte con un algoritmo abbastanza, sì, semplice. Assolutamente, addirittura fino a poco tempo fa si usavano delle password assolutamente ridicole, come per esempio la parola password, quindi meglio cambiarla. Sì. Tra l'altro quella è una delle poche password che uno si può anche scrivere sul monitor, perché sì, tanto, come dire, è importante che non la si sappia fuori dai muri di assolutamente casa. Assolutamente, certo. Comunque, come giustamente dicevi tu, anche le password che possono sembrare a prima vista complicate spesso sono generate in modo automatico a partire da alcuni parametri che un hacker esterno che si pone in ascolto della rete può eventualmente riuscire a scoprire con degli strumenti software disponibili, sì, sul mercato. Quindi meglio cambiare la password, sì, di default. Sì. Diciamo che gli hacker, quando sono bravi, o come direbbero i puristi, malicious hacker, quando sono bravi, sono capaci di entrare in qualsiasi rete. Per questo che io preferisco il cavo, ma sì, di questo parliamo in un altro momento. Francesco Loriga, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti, a voi e ai radioascoltatori. Francesco Loriga è responsabile dei sistemi informativi della provincia di Roma ed è responsabile del progetto Provincia Wi-Fi. E dirò di più, Loriga, non solo responsabile, diciamo che anima questo progetto, perché grazie al tuo entusiasmo hai creato, insomma, hai contribuito a creare questa rete. Che cos'è Provincia Wi-Fi? E a questo punto siamo usciti dalla casa alla piazza, alle strade, in questo caso della provincia di Roma, ma ci sono altri esempi in tutta Italia. Loriga. Dunque, il progetto è un semplice progetto di creazione di punti Wi-Fi gratis e aperti ai cittadini nei luoghi pubblici, quindi partendo da piazze, giardini, biblioteche, quindi luoghi all'aperto e al chiuso, ma quindi biblioteche, appunto giardini, piazze, ma siamo arrivati al Teatro dell'Opera, all'auditorium, ai tribunali, agli ospedali e via dicendo, di punti dove è possibile collegarsi ad internet con una discreta qualità, ma poi su questo magari ne parliamo, gratuitamente per un certo tempo e per una certa quantità di traffico gratuitamente ogni giorno. Questo è il progetto. Quanto si è estesa? Io ho detto la provincia di Roma, in realtà quali sono i territori coperti? Sì, dunque, noi abbiamo come progetto di provincia di Roma, abbiamo adesso ovviamente la nostra competenza territoriale è sui 121 comuni della provincia di Roma che costituiscono appunto questo territorio, che sono oltre a Roma, sono altre città più grandi come Civitavecchia, Guidonia e poi tanti altri comuni fino a comuni molto piccoli. E noi abbiamo adesso circa 900 spot, ma stiamo andando velocemente verso i 1000-1200, sicuramente li supereremo per la fine dell'anno, di cui circa 600, proprio 600 sono sulla città di Roma e gli altri sono negli altri comuni. calcolate che dei 121 comuni appunto ce ne mancano 10 in realtà, gli altri più, almeno uno spot in una piazza, nella piccola piazza l'abbiamo messo in ogni comune. E abbiamo adesso 198.000 utenti registrati, ad oggi però ve l'ho visto prima, abbiamo un'utenza di circa 5.500 utenti ogni giorno che si collegano, utenti unici, e 309 registrati ogni giorno più o meno di media, 250-300, quindi insomma è una cosa che continua ad attrarre e diamo solo connettività, sì. Questo è importante, che, per adesso non facciamo servizi, sì. Poi, che tipo di rapporto c'è con i comuni? Cioè è il comune che vi chiama e vi dice visto che esiste questo progetto mettete un hotspot in quella piazza, in quella via, o siete voi che andate? Come nascono gli hotspot? Dunque, noi quando siamo partiti nel 2008 abbiamo cominciato, il presidente Zingaretti ha scritto una lettera ai diversi sindaci e ai diversi, diciamo, mini sindaci, cioè i presidenti dei municipi di Roma, parlando di questo progetto, chiedendo collaborazione nell'individuare dei luoghi che loro ritenevano fossero interessanti per questo servizio. Quindi l'idea è quella, è stata intanto confrontarsi con il territorio per scegliere i luoghi. Abbiamo avuto varie risposte, all'inizio alcuni molto entusiasti, altri meno, devo dire all'inizio, ma che si sono ricreduti subito, e così abbiamo cominciato a mettere giù una lista di punti dove mettere degli spot. Abbiamo cominciato le installazioni su Roma in un modo, abbiamo fatto anche una gara pubblica per 250 hotspot, da creare in punti dove non c'era nulla, quindi portando nuova connettività, portando gli spot eccetera. Per altri abbiamo fatto anche così, ovviamente negli altri comuni, ma abbiamo anche sfruttato una caratteristica della nostra architettura, che è quella di utilizzare banda già esistente attraverso un meccanismo di VPN, per cui noi possiamo prendere un nostro spot, lo mettiamo dove c'è già una DSL qualsiasi, che può essere quella di una casa, di un negozio, ma anche una LAN di un ente, di un ufficio, così come del tribunale, così come dell'ospedale, e da lì farlo diventare uno spot di provincia Wi-Fi. Di questa rete, sì. Quindi farlo entrare nella rete. Ci fermiamo per qualche minuto, c'è un po' di pubblicità, vi ricordo il nostro numero verde, tra poco sentiamo i primi ascoltatori, 800 24 00 24, a tra poco. 2024 riprende 2024, questa puntata, questa seconda parte della nostra puntata dedicata al Wi-Fi, sia in ambito domestico all'interno della nostra casa, sia in ambito pubblico. Sentiamo alcuni dei nostri ascoltatori. Come sapete, la regola numero uno è che, essendo alla radio, prima di tutto hanno precedenza i nostri ascoltatori che chiamano il nostro numero verde, che tra l'altro è gratuito, quindi insomma non costa nulla. E poi eventualmente gli SMS se c'è qualcosa di interessante. Gian Andrea, sempre da Rimini, ma mi piaceva anche Francesco, però sentiamo solo Gian Andrea. Intanto complimenti a Enrico Pagliarini, che ascolto praticamente dal nascere. Io volevo segnalare che da qualche anno ci sono due reti Wi-Fi a Rimini, una che è stata iniziata dall'URP, dal comune, e recentemente un privato ha messo delle colonnine. Solo che io ho segnalato la problematica che la colonnina consente la registrazione ma identifica il device. Il problema non è di poco conto, perché io posso passare col telefonino e vedere la rete Wi-Fi, registrarmi e mi metto nei panni di un turista, e poi ripassare e decidere di ritornare in centro a Rimini perché magari devo fare shopping. Quando torno con un altro device, che potrebbe essere un notebook, un tablet, qualsiasi, ho appurato che praticamente non è possibile agganciare con la password, ho anche telefonato, segnalato al sito. Senta Gian Andrea, questo accade con la rete pubblica o con la rete privata? Questo con la rete privata, io l'ho segnalato al gestore, l'ho segnalato. Perfetto. Anche con una bella iniziativa che c'è stata qui a Rimini come Smart City, e qui hanno coinvolti sia l'URP, il comune, che dei soggetti privati. Vabbè, insomma, però, comunque è chiaro quello che lei ci ha detto. Poi sentiamo Francesco Loriga su questo. Sentiamo anche Francesco da Rimini, che abbiamo recuperato. Francesco, buongiorno, benvenuto, l'ascoltiamo. Sì, buongiorno. Io stavo seguendo la trasmissione e ho telefonato solo per segnalare che questo Wi-Fi che viene tanto sbandierato, pubblicizzato, in realtà non è così facilmente utilizzabile. In ambito domestico, io se vado a casa di parenti e amici basta che intercetto la rete, mi faccio dare le credenziali e mi collego tranquillamente col mio telefono. Non è così quando si intercetta una rete pubblica, vuoi che sia la stazione ferroviaria. Ma aspetti, Francesco, di dove sta parlando? Dice, non è facile dove? Ah no, quando si tratta di accedere alle reti pubbliche. Ma dice in tutta Italia, lei l'ha provata in tutta Italia? No, tutta Italia, io le posso dire che ho provato a Rimini e non ha funzionato. Benissimo. A Cesena ho trovato la rete e non mi sono connesso. A Forlì l'ho intercettata la rete. Diciamo che la Romagna non è messa tanto bene. Sentivo il segnale forte, però non mi sono collegato. No, questo solo per denotare che alla fine non è così semplice, cioè non è così facile, perché è facile, sì, mi collego alla fine. Francesco, la ringraziamo. Passiamo ad un altro, Francesco. Francesco Loriga, a proposito del... Insomma, al di là di questa difficoltà che ha avuto questo ultimo ascoltatore, che è possibile che sia vera, andrebbe verificata, insomma, per altri device e per altri utenti, Loriga, a proposito invece dell'identificazione, che questo è un altro grande problema, tu sei un grande esperto perché da anni ti occupi di questo tema, che cosa per legge va identificato e quindi le credenziali di accesso sono fatte sulla base di che cosa? Dunque, una piccola, mi permetto, scusa, di dire qualcosa sull'osservazione che faceva la persona prima sulla raggiungibilità e usabilità del segnale. Bisogna ricordare, come faceva anche Simone prima, che il wifi è una licenza pubblica, cioè non c'è licenza, quindi chiunque può trasmettere, quindi può darsi che in alcune zone ci stanno altri wifi anche di casa che disturbano, quindi va preso così com'è, insomma, anche in alcuni servizi pubblici lo spot potrebbe non raggiungere, come dire, le aspettative richieste perché magari è lontano. Venendo invece alla parte di registrazione, dunque nel 2005 in risposta a, diciamo, come risposta, come in reazione agli attentati di Londra famosi della metropolitana, in Italia è stata scritta molto velocemente, anche un po' così farraginosamente, il famoso decreto Pisano, che richiedeva che per la registrazione non solo alle reti wifi ma anche agli internet point, anche ad una serie di altri servizi wireless, nonché anche a quello dei cellulari, si usasse un tipo di identificazione abbastanza forte, cioè che richiedesse sostanzialmente la presentazione di un documento con la conservazione, eccetera. Cioè quello in sostanza che si fa quando noi in Italia compriamo una SIM, andiamo in un punto dei gestori, lasciamo la carta d'identità, si fa la fotocopia, eccetera, eccetera. Quell'identificazione è stata, come dire, la chiave che ci ha permesso anche a noi, come a tutte poi le altre reti wifi, di trovare una soluzione, perché poi richiede un'identificazione così forte per un servizio wifi che naturalmente è wireless, è in movimento, è, come dire, senza ufficio, era difficile, per cui l'idea è stata quella di trovare appunto un meccanismo che permettesse, attraverso l'uso del cellulare italiano, che quindi a monte ha una registrazione conforme, la possibilità di fare questa registrazione. Questo è stato in vigore fino all'altro anno, questa norma qui, cioè quindi un'identificazione di questo tipo, nonché un'altra serie di prescrizioni che vengono date in capo ai gestori del servizio, che sono la conservazione di una serie di dati regolati e normati poi dal codice della privacy e decreti attuativi di questo. Però per andare al succo della... Per andare al succo significa che adesso, anche che il decreto Pisano è stato abrogato, no? Questa cosa è importante dire, perché sembra che il decreto Pisano, che, o meglio, non è stato prorogato ancora, quindi non c'è più, sembra che tutto senza più registrazione. Non è così, perché il codice delle comunicazioni richiede che comunque i gestori di servizi di comunicazione, e anche il wifi pubblico ricade in questa categoria, mantengano la lista, diciamo, degli abbonati o l'elenco degli utenti, e siano in grado, su richiesta della polizia postale o della magistratura eccetera, di associare un IP all'utente. Che significa? Che quindi può capitare, e capita, che la polizia ci dice a un certo punto: ditemi chi è l'utente che aveva questo IP a una certa ora, perché ovviamente gli utenti passando per la nostra rete prendono un IP esterno, ecco. Ma noi non registriamo il traffico, questo è importante però. Ecco, ma va identificata la persona o va identificato anche il terminale? Perché giustamente il terminale non è una scelta, non so, ma probabilmente un po' esagerata, diciamo, commerciali così. Sì. No, può darsi per il controllo, per il traffico, bisogna vedere com'è fatta quella rete, però normalmente noi, come tutte le altre reti anche che si sono federati con l'Italia, sì, Wi-Fi, di cui poi parleremo. Dunque, manteniamo questa registrazione e c'è una coppia di credenziali, sì, che sì, può essere usata da qualsiasi terminale. Loriga, parliamo di un altro tema importante, perché proprio per via di questa registrazione, se io cambio città o addirittura mi sposto da un punto all'altro di una città, magari trovo un'altra rete Wi-Fi e devo fare nuove credenziali, registrarmi con un'altra password, eccetera, eccetera. Voi da qualche anno, assieme ad altre pubbliche amministrazioni italiane, avete lanciato una federazione di reti Wi-Fi che permettono quindi di andare in roaming, come, visto che il roaming è una cosa conosciuta da tutti, cioè io mi registro su una rete e cambiando città posso continuare a navigare. Come funziona questa Free Italia Wi-Fi? Funziona esattamente così, è nata diciamo un pochino più di un anno fa, quando insieme al Comune di Venezia e alla Regione Sardegna, che avevamo insieme cominciato esperienze di Wi-Fi pubblico, abbiamo ragionato sul fare qualcosa insieme, e una delle prime cose che volevamo fare è trovare un sistema di identificazione, come dire, che integrato per tutti i cittadini. Quindi adesso sostanzialmente funziona che gli utenti di non solo queste tre che ho citato, ma altre 12 reti Wi-Fi, fra cui Torino, Genova, Prato, Firenze, Pistoia e molte altre che si stanno aggiungendo, sono già 15 integrate, ma 26 hanno già aderito al progetto e stanno integrando, ed altre stanno aderendo. Tutti gli utenti con la loro coppia username e password, quando vanno, diciamo così, fuori casa in un'altra rete di Free Italia Wi-Fi, utilizzando le stesse credenziali possono navigare anche in quell'altra rete. Questo significa che quando io vado a Venezia, per esempio, utilizzo le mie credenziali dal portale di Venezia e navigo gratuitamente per un minimo di 300 mega al giorno e 2 ore di connettività. Questo è il limite minimo che ci siamo dati come reti, come garanzia per tutti gli, sì, altri utenti. Come regola di base di uniformità, diciamo così. Esatto. Adesso ci fermiamo per un minuto, ci sono le notizie per chi viaggia su strade e autostrade, riprendiamo tra poco. 2024. Una domanda per Francesco Loriga. Abbiamo detto che questa, come altre pubbliche in Italia, perché effettivamente ce ne sono tante altre, è una rete Wi-Fi gratuita per i cittadini. In realtà poi per la pubblica amministrazione c'è un costo. Allora volevo capire due cose, in estrema sintesi, Loriga, perché abbiamo una decina di minuti. Innanzitutto, che motivo c'è per una pubblica amministrazione, visto che l'esperienza della provincia di Roma è la più grande in Italia e anche quella da più tempo in attività, perché dare il wifi pubblico ai cittadini? Prima cosa. Secondo, quanto costa tutto ciò? Dunque, perché ovviamente è una scelta in qualche modo politica anche di politica industriale, di politica di sviluppo di un paese. Noi riteniamo, come molte altre amministrazioni, che sia giusto, sia un servizio pubblico che le amministrazioni pubbliche devono dare, perché è, in parte è un contributo alla lotta al digital divide, cioè fornire dei punti dove è possibile accedere a internet gratuitamente è un modo per favorire l'uso delle nuove tecnologie. Lo facciamo perché pensiamo che l'accesso alla rete debba essere sempre più riconosciuta come un bene necessario e indispensabile, e lo facciamo perché già tutte le amministrazioni pubbliche lo fanno con le fontanelle d'acqua e l'illuminazione pubblica. Molte, non tutte. Quasi tutte, l'illuminazione pubblica di notturna tendenzialmente pagata dalle tasse come questo wifi, ma è una cosa che poi i cittadini non pagano direttamente. No? Quanto come costa? Allora, noi abbiamo speso con 4 anni di esercizio, ormai più di 900 spot e la creazione e scrittura del software, siamo un po' sotto ai 2 milioni, con una serie di euro, con ovviamente una serie di anche di persone che lavorano, cioè abbiamo un call center che risponde ai cittadini, abbiamo fatto la comunicazione, eccetera. In realtà i prezzi adesso sono molto calati per due ragioni: uno, perché il wifi, essendo una tecnologia libera che funziona ormai, appunto, lo dicevate anche prima, sta dappertutto, quindi l'hardware è sceso tantissimo di prezzo. Posso dire solo questo: noi stiamo installando degli hotspot che compriamo sul MEPA, che è il mercato pubblica amministrazione di Consip online, a 38 euro l'uno. Sono degli ottimi hotspot che da 2 anni abbiamo su, non si rompono, per esterno sono fantastici. E i prezzi sono anche calati perché noi abbiamo investito un po' nella creazione di un software che abbiamo reso pubblico insieme al CAPRO, che è il consorzio dell'Università di Roma. Questo software si chiama openwisp.org ed è diventato un progetto autonomo, per cui adesso stanno collaborando anche persone che sono venute da fuori, c'è qualche hacker anche straniero addirittura che sta lavorando, e questo software adesso è stato dato in riuso, o meglio, l'abbiamo raccontato e se lo sono presi, perché non c'è nessuna autorizzazione da dare, altre 11 amministrazioni in Italia, fra cui Comune di Torino, Comune questo di Genova. Questo è importante. Allora, noi abbiamo parlato più volte di riuso del software, ad esempio questo è un ottimo caso da citare, cioè un software che è stato fatto per gestire anche l'autenticazione di questa rete Wi-Fi, che può essere riutilizzato senza fare dei nuovi investimenti. Francesca da Roma. Aggiungo, se mi permetti, una cosa sul prezzo. Il prezzo però adesso, per fare una nuova rete, diciamo una rete di una piccola città da 40 hotspot, 50 hotspot, sta sui 30-40 mila euro il primo anno e un poco di meno il secondo anno, considerando con questo tipo di architettura che può utilizzare reti già esistenti. Questo è importante perché noi abbiamo un po' investito per tutti e questo software adesso non si paga più, i sistemi sono facilmente reimplementabili, con una settimana di formazione chiunque se lo può studiare e metterselo in casa, e quindi di questo parliamo quando si parla di Wi-Fi. Dunque, rimaniamo sempre a Roma, ma ci spostiamo da Francesca. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, io volevo fare questa domanda. Siccome sto cambiando il cambiamento di gestore telefonico, ho la possibilità di installare questo wireless. Ho un appartamento dove abito e sotto ho lo studio dove lavoro. Quindi mi hanno parlato di wireless di questo tipo, con un'antenna, due antenne fino a quattro per la copertura, diciamo, attraverso i muri e i metri quadrati. Volevo fare un po' la domanda di qual era quello più opportuno, qual è la potenza rispetto a questo fatto delle antenne. Grazie Francesca. Allora, non si sentiva benissimo questa telefonata, però ripeto, cioè, Francesca ha due piani, quindi dice, un consiglio da Simone Zanardi per coprire i due piani. Beh, forse Powerline, comunque rispondi tu. Ci sono varie soluzioni. Allora, innanzitutto non è detto che non basti un access point, un router singolo riesca a coprire tutto, soprattutto quelli di ultima generazione, oltre ad aver incrementato la velocità massima, utilizzano un sistema di antenne multiple all'interno del router che trasmettono bene in tutte le direzioni, cioè non solo sullo stesso piano dove si trova il router, ma anche a dislivelli, quindi tipicamente il piano inferiore. Questo sulla carta. Poi può capitare che in caso di muri parecchio spessi o anche di solette particolarmente spesse, può esserci un problema di ricezione al piano diverso da dove c'è il router. In questo caso le soluzioni sono diverse. Si può optare per un ripetitore, che è essenzialmente un piccolo apparecchietto stupido che si collega alla presa elettrica e capta il segnale dell'access point principale e lo rigenera per aumentare la portata, senza bisogno di nessuna configurazione di fatto. Si può optare per un altro access point che si colloca al piano inferiore. In questo caso però è ovvio che l'access point che si colloca al piano inferiore deve essere in qualche modo collegato col primario, per esempio attraverso o il cavo di rete normale o attraverso questa tecnologia di cui oggi non abbiamo parlato, però abbastanza importante, si chiama Powerline, che essenzialmente permette di collegare due dispositivi in rete utilizzando i cavi elettrici, quindi le prese elettriche della casa. Esatto, va molto bene in ambito locale, in ambito domestico, piccoli uffici, cose del genere. Sì, assolutamente, perché da un lato non obbliga a cablare, quindi a filare i fili nelle canaline. Dunque, dall'altro. Simone, c'è una domanda di un ascoltatore che dice: se io, dopo essermi collegato in 3G con il mio smartphone, col mio tablet, entro in casa, i sistemi permettono di passare automaticamente al Wi-Fi? Assolutamente, tutti i sistemi moderni, Android, iPhone, BlackBerry, tutti hanno questa caratteristica. I telefonini di ultima generazione hanno sia il Wi-Fi che il 3G, cioè passano automaticamente. Tipicamente la regola impostata è di privilegiare il Wi-Fi, perché tipicamente il Wi-Fi, fatto salvo il canone che paghiamo per la connessione a internet al nostro provider, il Wi-Fi è gratuito. Certo, quindi certo. Tipicamente se io sto navigando in 3G, entro in casa, rilevo la rete Wi-Fi e mi collego al Wi-Fi e vado più veloce senza spendere soldi. Loriga, mi viene in mente una domanda a proposito delle reti pubbliche. Questa gestione del passaggio da una cella all'altra, adesso abbiamo fatto il caso del 3G al Wi-Fi, ma nel vostro caso da una cella all'altra, cioè se io mi sposto da una piazza ad un'altra all'interno ad esempio di Roma, c'è un handover gestito, quindi non mi accorgo, ad esempio, che ne so, sto navigando, non mi accorgo, mi cade la linea, mi devo ricollegare. No, l'handover non è gestito, anche perché, come dire, il wifi non è così semplice fare un handover così come succede per le reti cellulari. La tecnologia wifi è una tecnologia cosiddetta nomadica e non mobile come quella cellulare, quindi tipicamente insomma la parte dell'handover è più complicata e dà problemi, quindi questo normalmente non si riesce a fare, ci stanno studi su questo, poi immagino che magari Simone ne sa anche un po' più di me, però normalmente il wifi l'handover è un po' problematico. Dunque io ringrazio i nostri ospiti, avremmo altre decine di domande, perché oggi ci sono state parecchie telefonate, parecchi messaggi. Ringrazio Francesco Loriga e in bocca al lupo, perché insomma questa rete immagino che si estenderà ancora nei prossimi. Da quanto tempo è che esiste questa rete? Diciamo, i primi spot li abbiamo messi verso ottobre-novembre 2008. Quindi parecchio tempo, e sicuramente è una delle esperienze più interessanti in Italia. Avremo modo di riparlarne. Grazie anche a Simone Zanardi per essere stato con noi. Simone, grazie, buon lavoro, a presto. Ciao Enrico, alla prossima. Sono le 16:55 minuti. Io ringrazio come sempre i nostri ascoltatori, Valeria Bernardi che si è occupata della parte tecnica. Io sono Enrico Paglierini, potete ritrovarmi su Facebook e anche su Twitter, potete scrivere una email al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Allora ci risentiamo la prossima settimana in diretta dalla Festival dell'Economia di Trento, quindi dal vivo a Trento, con la nostra trasmissione sempre il sabato nel pomeriggio di Radio 24, oppure potete trovarci anche su internet, potete riascoltare tutte le nostre puntate, andate su www.radio24.it. Tra poco le notizie di GR24, un buon ascolto con i nostri programmi. 2024.